L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale vi proporremo con molto piacere davvero alcune interviste realizzate nel corso del quarto forum internazionale del Barilla Center for Food and Nutrition che si è tenuto a Milano all'Università Bocconi. Un incontro veramente internazionale, di grande richiamo, che raduna ormai davvero i massimi esperti della comunità scientifica specializzata nei temi della nutrizione e dell'alimentazione e che è capace di mettere questi due temi in relazione con economia, medicina, nutrizione, sociologia e ambiente. Temi di quest'anno, in particolare potremmo dire, erano i paradossi del cibo e quindi la malnutrizione da una parte e l'obesità dall'altra, l'accesso alle risorse idriche, lo spreco alimentare. 36 milioni di persone, infatti, ogni anno muoiono per mancanza di cibo, mentre per cause connesse all'eccessiva alimentazione i decessi sono 29 milioni. Considerati gli aumenti di popolazione, se nei paesi sviluppati manterremo questo stesso stile di vita, nel 2050 ci serviranno tre pianeti per mantenere lo stesso tenore di vita e di sprechi, perché l'umanità spreca 1,3 miliardi di tonnellate di cibo perfettamente commestibile, tra perdite lungo la filiera e cattive abitudini. Un quantitativo sufficiente a coprire per 4 volte le necessità alimentari di quanti oggi soffrono la fame. E sprecando cibo, sprechiamo anche acqua. Acqua che abbiamo usato per produrlo. Sono temi in particolare questi ultimi, quelli dell'acqua e dello spreco di cibo, ben noti e cari a Jan Lundqvist, attualmente consulente senior dell'Istituto Internazionale per l'Acqua di Stoccolma. I come from a background where we are looking upon the... Vengo da un background di studi imperniato sulla produzione e lo spreco di cibo e sono particolarmente interessato alle implicazioni di entrambi sui consumi d'acqua. La produzione di cibo, infatti, è ad alto consumo d'acqua. A livello mondiale, circa il 75% dei prelievi d'acqua, dai fiumi e dai pozzi sotterranei, è usata per produrre cibo. È ovvio che ci sono grosse differenze da paese a paese, ma questo significa che in alcune parti del mondo l'acqua che resta nei fiumi è davvero poca. Ci sono luoghi in cui i fiumi sono quasi asciutti. Non c'è più acqua quando arrivano al mare, almeno in certi periodi dell'anno. Quindi la produzione di cibo, l'acqua e gli usi dell'acqua nei vari settori produttivi e della società sono davvero molto legati. Ed è importante ricordare che non solo la quantità di acqua prelevata per la produzione di cibo è enorme, ma anche che c'è una gran quantità di cibo che viene perduta ancor prima che i prodotti arrivino sul mercato. Nei campi succede a causa di malattie, maltempo, alluvioni o siccità. Poi accade per cattivi trasporti, cattiva conservazione, mancanza di frigoriferi e così via. Lack of chilling facilities and such things. Ma lei ritiene sia possibile intervenire e cambiare la situazione? Dobbiamo intervenire. La popolazione mondiale è ora di 7 miliardi, ma in una generazione potremmo arrivare a 9 miliardi. Un bambino che nasce oggi vivrà in un mondo che ospiterà 9 miliardi di persone. Quelle persone avranno più potere di acquisto, e tutte vorranno più cibo. E più cibo significa più consumi d'acqua. Ma quell'acqua non l'avremo. Lei mi chiede che si può fare. Io penso che la situazione sia davvero molto complicata perché ci sono molti attori: contadini, compratori, venditori, aziende, consumatori. E per affrontarla dobbiamo trovare un mix che funzioni su tutta la catena. Un dato importante è comunque che ora ci sia un crescente interesse per il tema intrecciato dell'acqua e degli sprechi. Quando cominciai a occuparmene era il 2008. E perché se ne interessò? Perché mi sembrava che si stesse lavorando su definizioni fondamentalmente fuorvianti per il pubblico. Ad esempio, quando si parla di consumo di cibo nei documenti ufficiali, si indica la quantità di cibo comprata nei negozi. Ma la gente comune, al sentir parlare di consumo di cibo, intende la quantità di cibo mangiata. Invece non è così, perché di quello che compriamo, una buona parte viene gettata. Il 25, 30% addirittura. Allora la definizione giusta per ciò che realmente mangiamo è food intake, cioè cibo assunto, ingerito. La terminologia è una piccola parte, ma la gente altrimenti non capisce bene di cosa stiamo parlando. Dobbiamo essere precisi. Al mondo si produce più cibo di quanto non sia necessario a tutti per essere sani. È la distribuzione che non va. Negli anni 70, la FAO aveva come obiettivo di lavorare per la riduzione degli sprechi e delle perdite di cibo. Ma ricordo che quando insegnavo all'università, tutti si concentravano solo sull'aumento della produzione, perché si credeva che l'unica soluzione possibile per la malnutrizione fosse l'aumento della produzione. Ma quello che abbiamo constatato negli ultimi 15 anni è che all'aumento della produzione pro capite è aumentato anche il numero di coloro che non hanno cibo a sufficienza. Il fallimento è chiaro. Se non siamo riusciti a ridurre il numero delle persone malnutrite, a quale scopo abbiamo fatto tanto per aumentare la produzione? Una parte della spiegazione è che molto viene sprecato o perduto, come dicevamo. L'altra è la cattiva distribuzione del cibo, che in più ha creato un grave problema di ipernutrizione. Al mondo ora ci sono più persone obese che persone denutrite, anche se è convinzione comune che sia il contrario. Ora si discute molto sull'uso del grano per i biocarburanti. Certo, è un tema importante, ma in ogni caso la quantità di grano usato per il biocarburante è inferiore alla quantità usata per gli allevamenti. Via via che la gente dispone di più denaro, si trasferisce in città e vuole più carne. E questo è importante sia in termini nutrizionali che ambientali, in particolare per i consumi di acqua e le emissioni di gas serra. Dobbiamo essere più cauti sulla quantità e composizione della nostra dieta e dobbiamo cercare di convincere le persone a mangiare quello che comprano e non comprare più di quanto possano mangiare. In Europa, in America e in molte altre parti del mondo, il cibo è diventato relativamente poco costoso, soprattutto se confrontato ad altri beni di uso comune. In Svezia, per esempio, circa l'11% delle spese di una famiglia sono destinate al cibo. In Gran Bretagna ancor meno, l'8%. 10 o 20 anni fa si spendeva molto di più per gli alimentari. Ma le persone non si rendono conto che, se anche nel nostro budget mensile la spesa per il cibo è diminuita, attraverso le tasse che finanziano i sussidi, paghiamo comunque un prezzo per l'agricoltura. E c'è anche il costo ambientale. Sono tanti gli elementi utili e di riflessione che ci ha trasmesso Jan Lundqvist in questa intervista. Primo fra tutti però va sottolineato questo, direi: al mondo si produce più cibo, come dicevamo in apertura, di quanto non sia necessario a tutti per essere sani. È la distribuzione di questo cibo che non va. Restiamo al quarto forum internazionale del Barilla Center for Food and Nutrition per parlare ora con il professore Giancarlo Moschini. Da 25 anni in America, Moschini insegna economia all'Università dell'Iowa con uno sguardo particolarmente attento alle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Nel caso della catena alimentare e agricola, ha detto al forum, questo significa principalmente biotecnologie e bioenergie. Sono questi, a detta del professor Moschini, gli sviluppi più importanti dell'agricoltura negli ultimi 15 anni. Hanno a che fare con lo sviluppo di nuove tecnologie, qui stiamo parlando di biotecnologia, e lo sviluppo tecnologico è sicuramente la cosa più importante che ha caratterizzato la crescita economica e è l'unico, diciamo, è quello che ha le potenzialità per continuare a sviluppare l'agricoltura e l'economia in generale. E poi c'è anche una questione di impatto sui mercati e di impatto ambientale. Le bioenergie, che hanno avuto una crescita fenomenale negli ultimi 10 anni, hanno dei pro e dei contro e sicuramente hanno la potenzialità per per influenzare i mercati e l'uso delle risorse in maniera considerevole. E questi pro e questi contro a cui lei accennava adesso sono letti proprio come contro spesso da una parte della barricata e come pro dall'altra parte della barricata. C'è una possibilità di compromesso o di comunque di comunicazione? I fatti credo sono tali che ci si può accordare, poi l'interpretazione e le scelte di politica, anche di politica economica, chiaramente saranno influenzati da fattori che non sono solo economici o tecnici. Noi possiamo we can agree, quindi possiamo essere d'accordo sui fatti di una situazione, ma avere preferenze diverse, e queste preferenze, che possono essere individuali o collettivi, che possono riflettere anche attributi culturali o sociali, possono portare a decisioni diverse anche basate sugli stessi fatti e sulla stessa concezione delle cose. Ma l'importante prima di tutto è arrivare ad un consenso sull'interpretazione della realtà e su quello che, diciamo, per esempio, le bioenergie o le biotecnologie possono portare nella produzione e nel consumo che sperimentiamo tutti i giorni. C'è questo consenso negli Stati Uniti, dove ad esempio lei lavora? C'è discussione, e fin tanto che c'è discussione c'è la speranza che si arrivi a un consenso, però stiamo parlando di cose anche molto nuove e in questi tempi in cui c'è questa comunicazione immediata con tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, c'è forse anche la percezione che bisognerebbe arrivare a un consenso subito, e ci vuole tempo per assorbire e analizzare le situazioni e i dati, e bisogna anche confrontarsi in maniera oggettiva sulle tematiche che poi contano. Dal mio punto di vista, che è molto soggettivo, diciamo, in un certo senso, ma anche influenzato dal fatto che sono un economista, mi preme portare avanti il discorso dell'importanza delle scelte individuali e dell'importanza dei mercati come una locazione, diciamo, naturale in cui le scelte individuali vengono poi risolte. Le scelte dei consumatori in settori tanto nuovi anche vanno in un certo senso non indirizzate, ma come dice, va costruita una certa capacità del consumatore anche di capire. Come la costruiamo? C'è una questione proprio di educazione e di informazione che deve essere diciamo trasmessi in maniera obiettiva ai consumatori, e questo, c'è sempre opportunità di crescita in questa dimensione, però c'è anche la necessità di trasmettere in maniera molto sintetica l'informazione rilevante attraverso una variabile a cui tutti i consumatori guardano, che è il prezzo. E il problema fondamentale della sostenibilità ha a che fare con esternalità. E le esternalità nell'economia sono situazioni in cui alcuni effetti, per esempio l'inquinamento, alcuni effetti che caratterizzano le attività produttive non sono riflette nei prezzi che poi sono quotidiani, ma anche di chi compra e vende a livello di intermedio. E quindi il fatto che queste esternalità non sono catturate dai prezzi e quindi dai mercati porta a delle decisioni finali dei consumatori che sono bias, che quindi sono in direzione che non sono necessariamente sostenibili. E in questo senso credo che la disciplina degli studi economici può dare delle indicazioni molto rilevanti per come modificare e come internalizzare queste esternalità. Per esempio, se siamo veramente concerns, quindi se siamo veramente preoccupati del cambiamento di clima, e se pensiamo che infatti l'emissione di anidride carbonica da attività umane sono molto importanti, e quindi è necessario, è essenziale arrivare a una tassazione dell'emissione di carbonio, e questo deve essere attuato lungo la catena produttiva, e questo porterà a dei cambiamenti di prezzi dei prodotti finali. Alcuni prodotti che sono che sono più tassativi rispetto all'ambiente costeranno molto di più. Altri prodotti che sono molto più friendly verso l'ambiente costeranno molto, molto di meno. E quindi i consumatori, attraverso questa variabile critica che è il prezzo, potranno quindi esercitare la loro libertà di scelta, ma in una maniera che è compatibile con gli obiettivi di sostenibilità globale. I consumatori la capiranno subito, i governi forse non l'applicheranno, non so quanto siano disponibili. Se questi sono problemi a cui la gente tiene, alla fin fine anche chi è in posizione di governo dovrà considerare le preferenze dei consumatori e degli elettori. Ed eccoci qua, come anticipato, per un passaggio di intervista con Lester Brown, fondatore e presidente dell'Earth Policy Institute, un'organizzazione no profit di ricerca sull'ambiente basata a Washington DC. Al forum del Barilla Center for Food and Nutrition ha presentato tra l'altro il suo ultimo libro, pubblicato in Italia da Edizioni Ambiente, dal titolo 9 miliardi di posti a tavola, la nuova geopolitica della scarsità del cibo. Moderatore di questo incontro è stato Enzo Argante, conduttore proprio qui su Radio 24 di Ferry Boat. Enzo Argante, che ringraziamo per averci fornito la registrazione di questo incontro. Ne ascoltiamo una prima parte in questa puntata dell'Altro Pianeta, nelle parti, diciamo così, affini a quello che abbiamo detto fin qui. La seconda parte dell'intervista la trasmetteremo la prossima settimana in una nuova puntata dell'Altro Pianeta. Adesso spazio a Lester Brown e ci ritroviamo tra pochissimo. Per ridefinire questo sistema economico c'è bisogno anche, lei stesso lo definisce in uno dei suoi libri, un nuovo sistema di pensiero. Dunque è una questione mediatica, di educazione di massa. We are faced with an enormous educational challenge, which is how do we. Ci troviamo di fronte alla più grande sfida dal punto di vista proprio formativo, sostanzialmente distruzione a cui ci si sia mai trovati di fronte. Si tratta proprio di, cioè, se vogliamo veramente ridefinire il sistema, ristrutturare l'economia mondiale per renderla più sostenibile, non possiamo affidarci al sistema dell'istruzione tradizionale, formale, anche perché non abbiamo il tempo, cioè non abbiamo tempo di formare una generazione di insegnanti che formi una generazione di studenti che a distanza di anni diventerà la nuova generazione dei politici e dei governanti, perché appunto non abbiamo tempo per farlo. Per cui la possibilità che abbiamo oggi ci viene proprio offerta dai media, affidare il nostro messaggio ai media in modo che questi lo diffondano, incrementino la consapevolezza e sensibilizzino il pubblico, l'opinione pubblica riguardo a quelle che sono le sfide a cui ci troviamo di fronte e a come soprattutto impegnarsi attivamente, a come attivarsi politicamente per affrontarle. Il cibo, la tecnologia. La tecnologia non può risolvere o contribuire a risolvere il problema dell'alimentazione del mondo con la ricerca, con la scoperta di nuovi sistemi di alimentazione umana? Technology clearly has a role to play in satisfying future food needs. Ma sicuramente la tecnologia può svolgere un ruolo per soddisfare quella che sarà la domanda alimentare del futuro, però c'è una cosa che non possiamo dimenticare: i paesi che utilizzano le tecniche agricole più avanzate, tipo la Corea del Sud e il Giappone nella coltivazione del riso, hanno, dopo essere riusciti a incrementare la resa dei loro raccolti per decenni, adesso hanno raggiunto un appiattimento della curva, cioè non riescono ad andare oltre. Questo perché c'è un limite naturale che è determinato proprio dall'efficienza della fotosintesi stessa. In Europa stessa cosa, grandi produttori di cereali, Francia, Germania e Regno Unito, dopo essere riusciti a incrementare la loro resa per decenni, nell'ultimo decennio hanno di nuovo visto un appiattimento della curva e non sono riusciti a superarla. Quindi esistono questi limiti fisici agli sforzi che possiamo compiere per incrementare la produzione alimentare, per cui anche questi paesi che sono molto più avanzati dal punto di vista tecnologico in agricoltura hanno raggiunto quello che io chiamo un tetto oltre il quale non si riesce ad andare. The efficiency of photosynthesis itself, and once we hit that, I don't see any way of going beyond it.